noi avremmo un interesse tra noi e l'impresa a chiedere assieme che non si licenzino i lavoratori, non si chiudano le aziende, che ci sia meno fisco sulle buste paghe dei lavoratori, perché questo è un problema di grande giustizia sociale che va affrontato. Poi abbiamo un tema che ci divide, cioè il modello contrattuale. Noi abbiamo avanzato delle critiche, aspetto che rispetto alle nostre osservazioni Confindustria rifletta e faccia qualche passo in avanti. Se fa qualche passo in avanti è chiaro che allora noi ne trarremo anche delle conseguenze. Questo è il lavoro che dovremmo fare nei prossimi giorni.